Raggiunto adesso, cessato il fuoco tra tutte le brigate della resistenza palestinese a Gaza e l'esercito israeliano attraverso la mediazione egiziana. Quindi al momento i bombardamenti sono stati su Gaza sono stati sospesi. Poi speriamo ovviamente che sia un segnale definitivo e non riprendano in serata e nemmeno nei prossimi giorni. In seguito a quello che è successo domenica sera, tutti gli internazionali della striscia sono stati richiamati, è stata richiesta la loro presenza all'interno della striscia di andarsene perché Israele ha iniziato questi pesanti bombardamenti. Cosa è successo sostanzialmente? Domenica sera c'è stata un'operazione militare, questo blitz di israeliani che sono entrati a Khan Yunis all'interno per prelevare Nur Baraka, un leader del locale. Era un'operazione premeditata e sembrava che ci fosse anche il consenso del governo israeliano. Queste sono informazioni che bisogna ancora conoscere se effettivamente c'è stato o meno il consenso. Sono entrati, entrando fino a 3 chilometri dentro il confine della striscia, non è andata a buon fine l'operazione. Perché Hamas se n'è accorta. C'è stato un conflitto a fuoco. Durante questo conflitto uno dei soldati israeliani è stato colpito ed è stato ucciso e quando questo comando è entrato, era seguito ovviamente da un drone che ha iniziato a bombardare e a sparare tutto attorno per evitare che gli altri soldati coinvolti nella missione venissero prelevati e rapiti, in un certo senso, trattenuti come ostaggi. E tutta l'operazione ha ovviamente ucciso altri 7 palestinesi coinvolti nello scontro. Dopodiché ci sono stati dei bombardamenti e dei lanci di missili per un paio d'ore, ma diciamo che non sono andati avanti per tutta la notte, non è successo nient'altro, l'operazione era finita così. E in seguito, il giorno dopo, durante i funerali dei 7 palestinesi uccisi, c'è stata cominciata la risposta di Hamas con un lancio di razzi contro Israele. C'è da dire che già dalla mattina si sentiva degli assassini scivolare, quindi erano come dire, pronti anche l'esercito israeliano a una risposta. E subito dopo il primo, non ha funzionato evidentemente benissimo l'Iron Dome, il sistema di sicurezza israeliano, perché per esempio è stato colpito un autobus dove è morto un soldato israeliano. Alcuni di questi razzi appunto hanno colpito un po' non sono state fatte altre vittime. C'è stata un'altra vittima a Ashkelon, vicino al confine, e purtroppo era anche un palestinese. Comunque sia, sono iniziati i bombardamenti sulla striscia di Gaza, che hanno iniziato a fare diverse vittime durante tutta la giornata di ieri e hanno ripreso anche oggi. Infatti ancora adesso c'è stata una pausa solo di mezz'ora in cui gli egiziani hanno cercato di provare a intercettare, cercare di mettere la tregua, ma non ci sono riusciti. Attualmente siamo ancora in questa situazione qui. Questa situazione è arrivata in realtà, appunto, partendo da domenica sera, ma dopo che appena qualche giorno prima si era arrivati a dei primi accordi invece tra il governo israeliano e quello di Hamas. Esatto. Questa necessità di trovare un accordo derivava anche poi dalle numerose manifestazioni che si sono susseguite, come le manifestazioni del venerdì, che appunto non sono qualcosa su cui Hamas aveva un completo controllo, perché in realtà derivano anche dalle condizioni in cui poi si vive effettivamente nella striscia di Gaza. E quindi ti volevo chiedere anche di appunto riassumerci un po' quali sono anche queste condizioni, cioè perché poi si arriva anche a questo. La striscia di Gaza, cioè, da mesi si cerca appunto un'intesa tra Israele e Hamas. Quindi trovare un piano che possa portare dei finanziamenti, e si era stata trovata appunto adesso pochi giorni fa con la mediazione egiziana e il finanziamento del Qatar, per portare all'interno della striscia del gasolio, all'interno del piano c'era un ulteriore generatore per portare dell'altra elettricità, soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, medicinali e migliorare in generale la condizione della striscia, che vertono in una situazione di povertà estrema, ed era anche per quel motivo che partite le manifestazioni che ogni venerdì continuano ad esserci all'interno della striscia e andavano verso il confine tutti i venerdì, e appunto Israele chiedeva in continuazione ad Hamas di controllare e fermare queste manifestazioni, ma Hamas non riusciva e non riesce a poter controllare la massa di persone che vanno in continuazione al confine durante lungo tutto il confine, perché non si tratta solamente di un punto, sono di solito 4-5 punti lungo tutto il confine dove migliaia di persone, a volte sono più grandi, a volte sono anche meno consistenti, ritrovano per dimostrare manifestazioni dove proprio dimostrano la loro disperata, è una cosa di, è una dimostrazione di, del loro senso di disperazione più totale, perché anche correre verso il confine non è un voler invadere Israele, perché sarebbe correre verso la morte certa. Infatti, che cosa significa questo? Significa andare contro gli sniper israeliani, che altro non fanno che sparare contro i manifestanti. Quindi certo sarà anche nell'interesse di Hamas voler controllare e fermare tutte queste manifestazioni, ma queste manifestazioni altro non erano che la dimostrazione che all'interno della striscia c'è un assoluto bisogno di controllare e fermare questo stato di collasso a cui la popolazione vive da un sacco di tempo, perché dopo questi ultimi anni dove l'assedio non solo militare ma anche economico che Israele aveva generato, c'è l'ulteriore assedio da parte degli Stati Uniti e dell'amministrazione di Trump, che aveva fermato e aveva ridotto i finanziamenti all'UNRWA. È stato quest'ultimo accordo dove grazie al Qatar sono arrivati un ingente quantitativo di soldi che potevano e anzi possono migliorare questa condizione della popolazione e ridurre anche le spese in un certo senso, perché è ovvio, è anche una questione di soldi il tutto. Non si capisce perché a 3 giorni da queste risoluzioni incominciano, è successo questo avvenimento, è solamente una provocazione.